recording. E andiamo. Ci sarà adesso, avremo anche Craig che dice now recording, perché una volta sì, tra l'altro dei podcast. C'era anche nell'ultima puntata. Perfetto. Ascoltata. Benvenuti, benvenuti al 25esimo episodio del Focolare Elettrico, il nostro podcast su videogiochi e game design. Io sono Marco. Io sono Jacopo. E in questa nostra prima puntata che registriamo nel 2021, se non sbaglio, sto dicendo una castroneria, no, è la prima puntata che registriamo nel 2021, come dire, beh, buon anno di nuovo a tutti, anche se lo avrete sentito nella puntata precedente. E che buon dire... Buon anno a noi, dai, buon anno a noi. Buon anno a noi, ce lo meritiamo. Che dire, no, con il cambiamento portato dal nuovo anno, con i tempi che cambiano, no? Abbiamo deciso di parlare anche noi di cambiamenti e di evoluzioni, ma andiamo con ordine, eh? Ti piacciono i miei segue? Incredibile. Andiamo con ordine, però. Partiamo con le news della settimana nella nostra più o meno rubrica Download Updates, in cui Jacopo vuole fare un piccolo commento su un commento su un gioco che ha finalmente terminato, e io ho una sorpresa per chiunque non abbia... sorpresa vai, no, vai, perché è uscita. Ok, vai, la mia è più rapida, in cui finalmente sembra esserci una data definitiva per l'ultima espansione di The Binding of Isaac, con il 31 marzo 2021, e forse Macmillan stavolta ce la farà a portarci, visto che l'ha già annunciato... non so, credo una decina di volte l'uscita a questo punto, più o meno. E niente, qua era una cosa da celebrare, anche se è una notizia un po' vecchiotta, perché ormai al momento della registrazione è stata annunciata circa una settimana fa, quindi tutti la sapranno già, quindi quando poi voi l'ascolterete saranno passate altre 2 settimane, quindi probabilmente gli interessati ne saranno già ben al corrente. Tutto qui, io ve lo sono contento, un piccolo applauso per Macmillan. E prego Jacopo, a te la linea. No, ho visto questo nuovo trailer di un gioco dove c'era una massa di fanatici fascisti che assaltavano un edificio governativo in America. Pensavo, ah cazzo, The Division 3. Poi no, in realtà era la vita reale. E quindi facciamo anche politica oggi, dai. Ci no, stanno, no, no, evitiamo, per favore. Evitiamo. Se no ci mandano le minacce di morte i vari gamers. È una cose che amano fare, quindi mandare minacce di morte alla gente, per cui va bene. Comunque questa settimana la storia che racconterei davanti al nostro focolare elettrico, attenzione questa metafora, è la storia di Ghost of Tsushima, che è un gioco appunto uscito per PS4 qualche mese fa, che adesso hanno portato su PS5, diciamo, hanno fatto una patch per farlo funzionare meglio su PS5, che è dove l'ho giocato io. Questo gioco l'ho preso un po' come meme, l'ho preso un po' in giro, non l'ho preso seriamente, avevo le aspettative molto basse. Perché? Perché mi sembrava il tipico open world simile a Assassin's Creed, con tante cose da fare ma senza molta sostanza. Una specie di simile Breath of the Wild clone, così. Però mi ha sorpreso. Sono molto contento di averlo giocato. Mi ha colpito molto la trama. Non c'entra assolutamente nulla con Assassin's Creed. Cioè, ci sono momenti di Assassin's Creed molto belli. E io lo difenderò, quei momenti li difenderò fino alla morte. Ok. Ma la trama è molto... nascosta, tipo che esce da guanto. No. Perdonami. No. È molto molto più la trama è molto più presente, non è diluita, è una presenza costante, ed è bello avere un personaggio, interpretare, giocare un personaggio che la internalizza. Nonostante... E se mi dici che la trama ha un senso ed è coerente, direi che batte a mani basse Assassin's Creed a questo piano punto. Ah, ci arriveremo ci arriveremo questo dissing Assassin's Creed. No, però la trama in Assassin's Creed per forza di cose è molto frammentaria. In Breath of the Wild non esiste, ma quello è un marchio Nintendo, è voluto. Non è non mi aspettavo che fosse così importante, che fosse così, appunto, che ci fosse questo dialogo interno quasi di questo personaggio, che in parte aiuti tu a costruire, diciamo. Ho delle critiche che farò al gioco, o forse è questo il momento di farle, non so ne parleremo mai. Cioè che il gioco ha una piccola dissonanza autonarrativa. Boom. Ah! Questo, sai che ogni volta che lo dici un po' mi eccito. Diciamo che il gioco forza dei momenti di trama, secondo me, li fa uscire un po' dal nulla, senza dare davvero al giocatore la possibilità di dare un'influenza, senza dare la possibilità di dire, ah ok, è successa questa cosa, perché io ho fatto queste scelte di gameplay. Non è molto influente, purtroppo, nonostante possa sembrare così all'inizio. Il finale anche mi ha un pochino deluso, perché ti dà una scelta quando nel resto del gioco non hai davvero una scelta, e è una scelta secondo me che non dovresti avere, perché l'unica risposta possibile in quel momento è... beh, non posso dirlo, però non lo so, cioè è un gioco abbastanza carino e abbastanza difficile. No, non dico a livello di meccanica, è abbastanza stupida, sono abbastanza stupide le meccaniche, purtroppo, però è divertente, mi è piaciuto. Dici difficile a livello di decisione, a livello di storia? A livello di storia, sì, non è una trametta con finale felice, personaggi che tutti quanti sono in pace con loro stessi e con gli altri, cioè è una trama molto, molto complicata. E anche il protagonista non necessariamente è il buono della storia o il cattivo. È un po' grigia la situazione, che a me piace come scelta. E adesso voglio vedere i film di Kurosawa. Comunque, andando avanti, ci spostiamo dal nostro... Quindi gli dai pollici in su, uno Jacopo d'oro per il... Esatto, uno Jacopo sorridente. Jacopo sorridente, un pollice in su, un marchio di qualità. Ho visto di recente Mythic Quest, quanti buchi di culo gli dai come rating. Tantissimi buchi di culo. Perfetto. Quindi, signori, Vai. Ah, ok, va bene. Scusate, è solo uscito Craig, scusate. Solo uscito Craig, ma ci dovrebbe essere l'altro nostro registratore. Dicevo, ascoltatori, come avete visto dal titolo di questa puntata, che si chiama appunto What Game is Evolving? Chiara citazione a un gioco di cui forse abbiamo già parlato, giusto? Non mi ricordo. Basta questa battuta del cazzo, veramente. Chiara citazione ai giochi dei Pokémon, con questa famosissima frase che appare a schermo quando appunto una delle creature che il giocatore sta allenando è sul procinto di appunto evolversi, di cambiare, e che in questo caso fa riferimento all'argomento di quest'oggi, ovvero come quelle serie di videogiochi che ci hanno accompagnato per tanti anni ormai, si sono appunto evolute, sono cambiate nel corso del tempo. E vorremmo qui, insieme a voi, vorremmo tormentarvi un po' con le nostre elucubrazioni riguardo questo argomento, con le nostre piccole, non so, analisi, le possiamo chiamare analisi, le nostre... pensieri sparsi. Sì, chiamiamoli così. Su appunto cosa ci è piaciuto dell'evoluzione di varie saghe, cosa non ci è piaciuto di altre. E quindi, da dove vogliamo partire, Jacopo? Abbiamo detto, no, di partire appunto dando una definizione di che cosa sono le serie e le saghe, no? Allora, sì. forse sei più indicato tu a parlarne, però dobbiamo fare questa distinzione, no? Cioè, volevamo dire, noi parleremo sia di serie sia di saghe, in maniera un po' mischiata, però in teoria c'è una distinzione. No, tu dici in maniera mischiata, e in realtà, cioè, per come viene usato il termine al giorno d'oggi, ci può anche stare. Sì, esatto. Ora io... dal contesto, certo. No, no, dicevo, ora io che sono fanatico delle definizioni dal dizionario, sono andato anche a cercare le definizioni, che non è stato proprio chiarissimo trovare, definirle, ma in generale viene definita una saga, una singola storia divisa in più parti, raccontata in varie istanze. Mentre come serie si parte dal contrario, cioè sono più, a volte più storie, più istanze che sono collegate tra di loro per raccontare più che una storia, un universo inteso del qualcosa ambientato nello stesso setting, qualcosa di appunto collegato tra di loro, e che però al giorno d'oggi vengono un po' usati, forse in maniera ancora un po' erronea, ma come intercambiabili tra di loro. Non c'è più questa distinzione precisa. Saghe, penso che se ho trovato bene, la saga dovrebbe derivare proprio anche da quella nordica, nel senso proprio le storie... Sì, esatto, quella epica. Esatto, storie epiche, grandi racconti. Allora, siccome hai detto istanze, ma io ho sentito stanze, immaginatevi un castello, se volete. In questo castello ci sono tante stanze diverse, ok? In una di queste stanze c'è Pokémon. La stanza di Pokémon c'è Marco che sta urlando contro una parete piena di segni rossi e fogli e foto di Iwata e Miyamoto e... Immaginavo tipo la camera imbottita da manicomio con io con, esatto. Io con la camicia di forza e sulle pareti le varie immagini di Pikachu dipinte con... Esatto. volevi fare un riassunto veloce o questa stanza la possiamo allora, come... ignorare? Come i nostri più appassionati, più fedeli ascoltatori sapranno, c'è stato un episodio a parte in cui si è parlata di tutta la saga dei Pokémon, perché questa è, direi che si può definire praticamente una saga, forse. Ecco, vedi, già qua cade un po' la definizione. È una saga nel senso che l'universo è stato espanso, quindi più che la storia di ogni gioco è la storia dell'universo che è andata a espandersi, a essere raccontata nelle varie istanze. E come diceva, sono collegati. Sì, le storie no, sono scollegate di loro, cioè, forse solo tra oro, tra rosso, blu e argento. Vabbè, non mi far partire, Jacopo, perché sennò finiamo giù nel burrone. Però c'è stato un episodio che ha intitolato giustamente Poker Hand, in cui io mi sono concesso due, tre ore di discussione per parlare di tutto ciò che c'era da dire, a mio parere, sulla saga dei Pokémon. Quello è lì, tenetevelo, andatelo a vedere se ci tenete, se siete pazzi come me. E quello illustra... con gli ospiti per lo stress post-traumatico che stanno ancora subendo. Devo ancora pagare gli psicologi. E andatelo a vedere. Quello è, diciamo, da dove è partito tutto, perché questo episodio, tecnicamente, io l'avevo pensato all'inizio come quella puntata, cioè che noi avremmo parlato sia della serie dei Pokémon, ma poi anche di altre serie. Poi mi sono accorto che no, una volta che parto con le serie dei Pokémon non mi ferma più nessuno, quindi abbiamo fatto quello lì a parte. E adesso, questa è la seconda metà dell'episodio praticamente, cioè sono 3 ore di Pokémon, poi 3 ore di altre cose, non è esatto, vero, un'ora e mezza di altre cose. Esatto, diciamo che per ogni stanza di questo palazzo, quindi per ogni serie o saga, questo è un piccolo condominio a sé stante dei Pokémon. Cioè, questo è stato, lasciamo perdere il manicomio dove c'è Pokémon dentro e ci spostiamo dentro il palazzo principale. Entriamo e la prima cosa che notiamo è che in un'ala di questo palazzo c'è una palestra piena di fanatici di parkour. Queste metafore stanno degenerando. Mi sto immaginando un po' il palazzo di Lara Croft, che tra l'altro è un'altra saga che abbiamo dimenticato di aggiungere qui, ma in caso ne parliamo. Però cosa succede? Che sia io che Marco abbiamo un qualche rapporto con Assassin's Creed. Io forse sono quello che ha giocato un po' di più. Velocemente presento che cos'è Assassin's Creed e come si è evoluto. Essenzialmente Assassin's Creed è una serie fatta per fare soldi alla Ubisoft. O una saga. No, sto scherzando. No, vabbè, in realtà è nata da Patrice Desilets, che è un designer che a me piaceva molto, anche se l'ultimo gioco l'ha fatto da schifo, che ha detto, ma facciamo questo gioco a tema storico, ma con questa tematica del presente. Quindi, quando è uscito il primo Assassin's Creed, non si sapeva che in realtà il protagonista del gioco vero era una persona nel presente che riviveva le memorie dei suoi antenati. Questo e se non sbaglio, credo fosse il tipo il colpo di scena finale, no? Molto alla M. Night Shyamalan. No, in realtà no, non era finale, era un colpo di scena per chi ci giocava la prima volta, perché nel tutorial già si capiva. Ok. Era solo perché nel marketing c'erano solo degli strani artefatti che poi si è scoperto essere... erano dei glitch dell'Animus, che è questo appunto sistema certo. Per rivivere le memorie degli antenati. Che è anche un modo anche ottimo per nascondere i vari glitch del gioco e dire, ah no, ma questo è l'Animus. Meta glitch, praticamente. È tutta lore quello, appena vedi una persona che si bugga. Comunque, vabbè, questo è successo. Che questa è la base di Assassin's Creed, quindi è il pretesto narrativo per dire, ok, stiamo vivendo memorie di persone realmente esistite, però poi si aggiungono varie... cose, varie cospirazioni, varie lore molto antiche, cioè tantissime cose si vanno ad aggiungere, e col tempo la saga è diventata, secondo me, qualcos'altro, cioè è partita come, qui poi correggimi tu, è partita come una specie di azione avventura stealth, quindi tutto abbastanza incentrato sulla furtività, esatto. Sull'azione e l'esplorazione, no? Con questa enfasi per il parkour, l'enfasi per appunto nascondersi in piena vista tra la folla, quindi la navigazione con la folla. Mi ricordo che quando ho visto il filmato di gioco dove il personaggio, diciamo, nel passato toccava, cioè metteva la mano su una persona nella folla, ho detto no, cavolo, cioè che animazione incredibile, no? Cioè, futuristica, cioè questo qui sa che lì c'è una persona che la sta spostando. Era abbastanza futuristico all'epoca, sia per appunto il movimento, sia per altre cose. Ricordiamo che il primo titolo, se non ho letto male, dovrebbe essere uscito nel 2007. Sì, quindi non è vecchissimo come saga, è due generazioni fa. La cosa che mi dispiace un po' è che, parlando un po' di come si è evoluta, la serie sembrava andare in una direzione con Assassin's Creed 2 e Brotherhood, che è una specie di Assassin's Creed 3. È un Assassin's Creed 2 e mezzo, diciamo. Diciamolo pure, ci sono state, perché possiamo anche parlare un po' più nello specifico magari di Assassin's Creed, che è una di quelle che secondo me è una di quelle che rappresenta meglio l'idea di questo episodio. È una di quelle saghe che ormai dura da praticamente 13 anni, con un titolo che usciva quasi un titolo nuovo all'anno, praticamente. Quasi, sì. E che ha visto parecchi cambiamenti. Già c'è stato un ribaltamento tra il primo titolo della serie e il secondo, che è abbastanza colossale, perché il primo titolo era molto acerbo, il combattimento era così, le meccaniche erano appunto macchinose, e con il secondo già ci si trova molto meglio. Infatti io ho avuto la fortuna di giocare prima il secondo e poi il primo e da lì essermi un po' innamorato, diciamo, all'inizio della saga. Però appunto, come dicevi, è una saga che è cambiata parecchio dalla sua creazione. Anche adesso non so quale punto stavi per fare prima che io ti interrompessi. Grazie per avermi interrotto prima che lo facessi. No, vabbè, era... No, perché allora, se tecnicamente voglio andare in ordine, c'era stato Assassin's Creed 2, poi Brotherhood, poi Revelation e poi il 3. Esatto, quindi volevo parlare un attimo di dove stava andando la saga con il 2 e con Brotherhood, e in parte con Revelations, anche se Revelation... per me è un capitolo minore, diciamo, un capitolo un po' di transizione. Una, scaterna che ho visto adesso di titoli secondari, madonna, non lo vedevo. Sì, sì, ci sono tanti titoli che ignoreremo, parleremo solo dei titoli principali, parleremo, ne voglio parlare in generale, non voglio fare una retrospettiva completa, magari appunto volevo parlarne in breve anche per lasciare spazio ad una puntata più approfondita, magari in futuro, non so, vedremo. Comunque, quello che volevo dire in generale è che con Brotherhood, con il 2 e con Brotherhood, si stava andando nella direzione più di un gioco stealth e di movimento più profondo. Anche il combattimento in Brotherhood, che era rimasto molto più semplice, molto più, come posso dire, avvicinabile rispetto a tanti altri giochi di quell'epoca. Mm-hmm. Appunto, cioè, cominciava a uscire roba come Dark Souls, con meccaniche molto più profonde. Comunque in Brotherhood stava cominciando a diventare più aperto, più appunto personalizzabile, perché avevi più armi diverse, con moveset diversi, con appunto vantaggi e svantaggi verso avversari diversi. Ma so, per dire un po' una bestemmia qua, forse ricordava quasi molto, forse un po' Metal Gear 5, Phantom Pain, in generale come idea di base, poi con una... Secondo me no, più come traiettoria forse, però sì. Sì, nel senso, diciamo, forse l'idea di base era quella, no? Un open world in cui uno... c'erano meccaniche un po' stealth, un po' di combattimento, con strategie migliori verso alcuni avversari. Esatto, la cosa ma molto meno sviluppato. La cosa bella è che... Sì, scusa. No, scusa tu, continuiamo a interromperci. Questo mi sa che c'è un po' di lag tra i microfoni. E, no, dicevo, giusto, molto meno sviluppato rispetto a Phantom Pain. Prego. Sì, esatto. Cioè, mentre in Phantom Pain ogni idea è profonda, ogni cosa, ogni meccanica è viable, qui c'è Brotherhood che ha la base che puoi espandere, puoi migliorare, che è l'isola Tiburtina, mi sembra, a Roma. Hai tutto quanto il... diciamo l'over, come posso dire, il game, il gioco nel gioco, che è appunto gestire la fraternità degli assassini, hai appunto tutte queste meccaniche di combattimento più profonde, anche come movimento di esplorazione, quindi salti, cioè scalate, discese, cose che potevi fare erano molto più profonde di quanto sembrasse all'inizio, ma tutto questo è sparito. Cioè, la serie ha fatto una specie di trofront con Revelations un pochino, ma poi anche con il 3, con Black Flag, cioè è andato un po' a riscoprirsi, a fare una specie di reboot a più riprese, cioè con secondo me, per rubare un Flag... termine, per rubare un termine da un'altra categoria di diciamo di, non so quello che sto cercando di dire, quando è che la serie ha fatto quello che si dice ha saltato lo squalo, in questo caso è difficile da definire, secondo me, perché per me Revelations ha un problema diverso dal problema del 3, dal problema del 4, dal problema di, cioè ogni gioco introduce dei problemi e ne risolve altri. In parte perché sono fatti da team diversi a volte, vero. In parte perché hanno obiettivi, hanno storie molto diverse, In parte perché la serie appunto ha perso una coesione anche di trama, cioè si è molto persa, a parte negli ultimi un po' due, anche la sua identità, cioè secondo me negli ultimi titoli soprattutto non sanno più bene forse dove vogliono andare un po' a parare, almeno ho avuto quell'impressione lì. Sì, esatto, non c'è più una direzione chiara, ma voglio, diciamo, dire una cosa. Cioè, a me Origins in realtà è piaciuto, che è il terz'ultimo Assassin's Creed uscito, perché sembrava dire lasciamo perdere Assassin's Creed, cioè non facciamo più un Assassin's Creed, facciamo una specie di The Witcher, Dark Souls. Sì, con Origins hanno cambiato completamente proprio hanno stravolto un po' quasi tutti i sistemi. Il problema è che poi con Odyssey hanno un po', secondo me, mercificato questa cosa. Quindi diciamo che Assassin's Creed è una serie che potenzialmente può diventare ancora... cioè può evolversi facilmente perché non ha un'identità ben definita, a parte il parkour, diciamo. Cioè, Secondo me un'identità un po' ce l'ha, secondo me è una dei suoi, delle sue cose che ha, su cui ha sempre puntato molto e che la Ubisoft ci teneva a far notare, a far come dire, a farlo come punto di vendita, punto di marketing. Era questa idea molto carina all'inizio, anche ben sviluppata, di questi giochi ambientati in certi periodi storici. Loro avevano questa idea... Non è una cosa costante. Cioè, se tu dici questi giochi sono ambientati in momenti storici fighi, non stai dicendo una cosa che è costante. Cioè, per definizione, ogni gioco sarà diverso da quello precedente. Che è bello, per carità, non sto dicendo che non è una cosa bella. Ma non tanto... A livello di meccanica manca una coesione. Ah, ok, vabbè, quello sì. Va bene, soprattutto negli ultimi c'è stato un grande distacco. Cioè, però non che debba esserci, però manca proprio un senso di evoluzione, perché è sempre una rincorsa, è sempre un insieme di cose, di modifiche che sembrano rincorrere le cose che vanno di moda, adesso perlomeno. O che sembrano facilitare delle meccaniche che non andavano facilitate ma andavano approfondite. Cioè... è sempre un tira e molla, quindi se posso dire ok, mi è piaciuto Origins, allo stesso modo posso dire Odyssey mi ha un po' deluso. Cioè, è una serie che si è evoluta in maniera un po' strana, un po' altalenante, diciamo. È diventata, anche qua permettimi un po', perdonami per questo paragone, forse è diventata l'equivalente quasi del mondo dei videogiochi dei nostri cinepanettoni. Così. No, questo non, è un tuo concetto. Non quello, ok, forse non proprio il cinepanettone, nel senso non quello squallore che c'è ogni Natale al cinema, però nel senso di è diventata quella classica, quel classico titolo che sai che esce una volta all'anno e che per avere dei tempi di sviluppi così brevi, perché sono brevissimi tra un titolo e l'altro, soprattutto quelli più pesanti della saga, tra virgolette, principale, tu sai che un po' di cose vengono riutilizzate le stesse, tra virgolette, battute, le stesse gag, le stesse cose, cercando di dargli un po' un sapore diverso, con una differente ambientazione, un differente periodo storico, ma sai che alla fine la minestra è quella, e, come dire, non è che sia malvagio di suo, perché ci sono anche quelle persone che gli piace quella minestra, prendono Assassin's Creed perché vogliono fare l'assassino che cade sulle persone, con... la lama nascosta. Marco, che trovo offensiva questa descrizione di Assassin's Creed. Lo so, guarda, cioè fino a qualche anno fa non l'avrei, mi sarei sentito male a farla, però devo ammettere che dopo gli ultimi titoli, non so, ho visto l'uscita di Valhalla, perché non l'ho giocato, gli ultimi titoli non li ho giocati, premetto, però li ho seguiti, e ho visto l'uscita di Valhalla e insomma, no, non mi mancavano nemmeno De Sica e Volti con l'ultimo cinematico, quello non l'ho visto, però... Parole pesanti, ma lo so. ti farò una gentilezza e non ti insulterò per questa grazie, per questo che ti voglio bene, Jacopo. No, vabbè, è evidente secondo me, cioè, farò un'osservazione, ma poi ci torniamo, perché un altro motivo per cui voglio muovermi più velocemente è che voglio fare un'osservazione generale su tutti quanti i videogiochi, su come si stanno evolvendo. Ok. Voglio fare un'osservazione. Assassin's Creed sembra un po' un game as a service senza service. Approfondiremo questa provocazione. Ma ora... no, era giusto per dire, per dare una conclusione, perché effettivamente siamo partiti subito forti, ma così era giusto per dire per i nostri ascoltatori che magari sentendo un po' meno, che l'abbiamo detto che gli ultimi titoli erano cambiati perché da gioco action è diventato quasi gioco di ruolo. L'avevamo detto questo, non so, ci tenevo giusto a rimarcarlo. Detto, non l'avevamo detto, ma avevo detto Dark Souls, avevo detto The Witcher 3. Poi però gli va anche dato, voglio dare un po' di credito dove credito è dovuto. Assassin's Creed 4, che è stato l'ultimo numerato, perché poi dopo i numeri li hanno abbandonati, un po' come stanno facendo con i film di Star Wars, Non so cosa c'ho quest'oggi nel voler paragonare saghe cinematografiche e videogiochi. Sei però Assassin's Creed 4, cioè, bisogna dire, il miglior gioco di pirati mai fatto, questo andava detto. Bellissimo. Il miglior gioco di pirati mai fatto. Uno dei preferiti, ma ci tengo a dire che nonostante sia uno dei miei preferiti, per me è anche l'inizio della fine. È vero. Per citare altri. Esatto. Comunque, ok, andando avanti, lasciamo un attimo alle spalle l'odore di sudore e di soldi. ci spostiamo in un'altra stanza che sembra una stanza di un bambino iperattivo, piena di giocattoli che sono metà dinosauri e metà pistole e roba futuristica. E parliamo velocemente di Final Fantasy. Velocemente, perché prima o poi la dovremmo fare una puntata con Edoardo, il nostro tuttologo di Final Fantasy. Sì, faremo una puntata apposta più in profondità. Laureato con summa cum laude in Final Fantasy. Final Fantasy. Tesi su... No, basta di ristampare, scusate. Final Fantasy, questa, ecco, vedi, questa qua effettivamente c'è più da definirla una serie che una saga, perché come penso che molti potrebbero non sapere, perché io ero tra questi fino a qualche tempo fa, quando ancora non mi interessavo, che sebbene siano numerati, abbiano un ordine i Final Fantasy, abbiano un capitolo, effettivamente, non sono collegati tra loro, giusto? Molti sì. Scusami, la maggior parte no, alcuni sì, tipo Final Fantasy 13-2... Però è lì quello, cioè nel senso... Lì è il Final Fantasy 13, 1 e 2 poi sono divisi. Ma certo, no, ovvio. Vabbè, ho capito che non è che poi... giochi così. Però effettivamente io in realtà anche neanche tantissimo tempo fa pensavo effettivamente che non dico che fossero il proseguo di una storia come Signore degli Anelli 1, Signore degli Anelli, Compagnia, Torri e Ritorno, non a quel punto, però pensavo che comunque ci fosse un qualche collegamento narrativo tra il 6, il 7 e l'8, forse per tra dire. Alcuni sì, forse alcuni sono nello stesso mondo, perché comunque non coincidono solamente. Allora, diciamo che Final Fantasy ha una mitologia condivisa, nel senso che ha quasi sempre gli stessi mostri, ha riferimenti, ecco, agli stessi personaggi, tipo, che ne so, in molti Final Fantasy c'è un personaggio che si chiama Sid e sono molto simili fra di loro i Sid. Sì, ecco, questa è una cosa molto carina che adesso mi sta sfuggendo. Mi ricordo che c'era qualcos'altro che faceva una cosa simile, però di base non c'è un collegamento di storia, ma c'è un collegamento di ambientazione. Ecco, sai cosa? Sembra quasi la saga dei Dark Souls, in cui in ogni capitolo le stesse anime, gli stessi personaggi, gli stessi mostri, le stesse invocazioni, le stesse creature, sempre parlando di Final Fantasy, si ritrovano, vengono reinterpretati, vengono reincarnati in modalità differente, ma che hanno uno stesso significato dietro, diciamo. Il loro cambia l'involucro, ma il contenuto, appunto il significato, il concetto rimane lo stesso. E quella è molto bella come idea, a me piace tanto. E... sì, ci sono anche, è vero, molte idee condivise, non solamente mostri e personaggi. Ci sono molti concetti tipo ambientalismo, l'idea dello spirito della terra, cioè sì, è vero, effettivamente. E quello penso che sia un'idea, una delle cose che l'ha fatto veramente innamorare tutti i fanatici di Final Fantasy, perché anche se le storie sono diverse, come dire, possono ritrovare dei concetti simili, delle familiarità che tengono attaccati il vecchio pubblico, ma che permettono anche a un pubblico nuovo che non ha mai avuto l'opportunità di vivere un Final Fantasy fino a quel punto, di poter apprendere un qualsiasi capitolo della saga e capire che cosa c'è dietro in questa storia singola, ma che con un collegamento generale dietro le altre. E riguardo la sua evoluzione, direi che c'è parecchio da dire, perché ricordiamo che il primo Final Fantasy è uscito nell'87, il primo Final Fantasy, a 33 anni, 34 quasi, ormai andiamo per i 34. Per cui, in realtà anche compiuti da poco, perché il primissimo Final Fantasy sì. è stato rilasciato il 18 dicembre dell'87. Tanti auguri, Final Fantasy. Buon compleanno. Il nostro caro amico Sakaguchi, come mi piace essere chiamato a lui con due C, Very Gucci, il creatore doveva farlo inizialmente come ultimo episodio, perché quello si chiama Final Fantasy. Detto, ma ne faresti un altro? E come lo chiamo? Final Fantasy 2? Sì, oh, okay. Perché no? Perché no, dai, che senso c'ha? Sembra quasi le espansioni di Isaac, no? L'ultima espansione. Dai, butta esatto. dentro, butta dentro. Volevo fare una veloce analisi dell'evoluzione della serie e farò un commento, poi magari ci spostiamo in un'altra stanza di questo castello, ma l'idea è che Final Fantasy è nato come un gioco a turni. È il tipico gioco alla Pokémon, tra virgolette, inizialmente, dove hai dei membri di un party, ma... Direi quasi che il Pokémon è il classico gioco alla Final Fantasy a questo punto. Anche sì, però in Pokémon hai un livello di meta più complicato, secondo me, perché devi scegliere quando cambiare i personaggi e sì. è molto più concentrato sul multiplayer di Final Fantasy rispetto a Final Fantasy. Beh. Invece su Final Fantasy hai tutti i membri del party, li hai disponibili in ogni turno, quindi sono tutti in combattimento allo stesso momento, di solito, e non è, come posso dire, il sistema di gioco è cambiato spesso, non tantissimo, però dal Final Fantasy 7 specialmente in poi, ogni capitolo ha un po' cambiato il sistema. Nel 7 avevi questa barra che si riempiva con il tempo per poter fare delle mosse, avevi tante... Vabbè, qui faremo una cosa più... come posso dire, più approfondita con Edoardo, anche dei turbo tracking, eccetera, però in sostanza con il tempo è passato da un gioco a turni a un gioco praticamente non a turni, perché l'ultimo Final Fantasy, cioè il 15, è completamente in tempo reale. Cioè, è vero, c'hai una barra che si riempie, hai delle cose da gestire che hanno un tempo, ti ricarica, che hanno... però l'azione è continua. Lì devo ammettere che non mi sono informato tantissimo, perché non è una di quelle saghe che mi ossessiona come le altre, però anche forse con il remake del 7 è stato fatto una cosa un po' meno attura, sì, non ricordo male. Esatto, anche il remake del 7, cioè l'andazzo è che le componenti a turni di strategia, ovvero come, che ne so, come buildare i personaggi, cioè che tipo di oggetti dare, che tipo di abilità sviluppare, cosa fargli fare, cioè ogni membro del tuo team comunque ha una rilevanza più importante rispetto ad altri giochi dove sono semplicemente dei soprammobili, ma comunque tu sei un personaggio, hai un moveset ben specifico. Mi stai dicendo che il combattimento a turni non è più così amato come non te... Scusa, ma sì, diciamo che... Scusa, no, ti stai sbagliando, no? Non hai visto i giochi? Sto sbagliando sicuramente. A me devo ammettere che è piaciuto molto quello del 15, ma ci sono delle critiche che un po' secondo me evidenziano il punto di forza dei vecchi Final Fantasy, quelli più a turni, ovvero la difficoltà e la ripetitività. Cioè in Final Fantasy, secondo me, nei Final Fantasy precedenti, quando non eri costretto a farmare, mettiamola così, purtroppo, perché anche lì c'era questa cosa molto brutta, comunque i combattimenti erano interessanti, erano diversificati, erano sempre... dovevi sempre concentrarti per capire le debolezze, per capire quale mossa fosse meglio eseguire in un certo turno. Invece nel 15 è un po' più spammone, cioè attacchi, attacchi, attacchi, ritirata, attacchi, attacchi, attacchi, così. Però mi è piaciuto molto il 15, volevo un attimo spezzare una lancia a favore, perché molti l'hanno criticato, molti fan della saga o della serie. E voglio dire solo che è un gioco dove per la prima volta io ne ho giocati pochi, ho giocato tipo un po' il 7, l'8, e ho finito il 10 e ho finito il 13 praticamente, quindi ho giocato i peggiori, si potrebbe dire, a parte il 10 e il 7, vabbè, quello forse invecchiato un po' peggio, però non ho mai giocato il 6, non ho mai giocato il 9, non ho mai toccato il 12, cioè ci sono dei favoriti insomma nella fanbase, però il 15 secondo me è un gioco che davvero ti mette nei panni del protagonista, cioè tutte le mancanze di trama che sono state evidenziate nella critica secondo me sono dovute a una scelta ben precisa, c'è un motivo, ovvero che è tutto filtrato dalla, dal punto di vista del personaggio, è tutto una conseguenza di chi è il personaggio e di che cosa sa quel personaggio. Non dirò altro perché non voglio spoilerare troppo, però Final Fantasy è una serie interessante secondo me per questo, perché si è evoluta molto come trama, come gameplay, come, cioè non è una serie secondo me che ha paura di provare cose nuove, anche se non funzionano, anche se funzionano meno bene di altri sistemi, comunque li provano e non hanno paura di appunto di portarsi dietro una fanbase un po' arrabbiata, un po' contrariata, diciamo. Mi hai rubato le parole di bocca, perché assolutamente anch'io d'accordo su questo punto, infatti volevo fare i complimenti per il 15 sempre, che come dicevo non è una delle saghe che ho seguito di più, però va detto che ci vuole coraggio per fare quello che hanno fatto con no, ci vuole coraggio in senso positivo, sì, per fare quello che hanno fatto con gli ultimi capitoli, ovvero di rinnovare il sistema più base delle meccaniche di gioco per cercare di renderlo più interessante, più come si dice, più appagante anche in questo rispetto a tutti gli altri giochi esistenti di questo periodo, e tanto di cappello, perché magari non sarà stato perfetto alla prima botta, però ci hanno provato, hanno cercato di reinventarsi, hanno cercato di rendere più cercando di rinnovare la solita proposta con qualcosa di nuovo, e i miei bravi, ci vuole un po' di palle anche, no, in queste cose qui. E come diceva appunto Jacopo, poi le varie meccaniche, più che meccaniche, forse le sottigliezze, magari tra i vari capitoli cambiava il sistema di magie, il sistema di invocazioni, anche lì molto carina come cosa per cercare di mantenere interessante ogni capitolo, nonostante fosse sempre, tra virgolette, la stessa serie, non la stessa saga, vedi? Quindi complimenti, cioè Final Fantasy è una delle saghe più amate, di nuovo, una delle serie più amate fino a questo punto, dopo 30 anni dalla sua release, per un motivo. Esatto. Alla Square Enix continuano ad avere il coraggio di cambiare e innovarsi. Voglio fare due commenti su Final Fantasy, uno positivo, nel senso che in realtà secondo me una delle cose che non è cambiata col tempo e che non deve cambiare è la qualità delle soundtrack. La colonna sonora di Final Fantasy è talmente bella e talmente importante che anche se non avete giocato un Final Fantasy, anche se non avete giocato un videogioco nella vostra vita, prima di tutto, che cazzo ci fate qua? Secondo, andatevi ad ascoltare assolutamente le colonne sonore di Final Fantasy, perché tra l'altro, cioè, avere la possibilità di riascoltarle tutte nel 15 è geniale, perché da un lato appunto ti permette di dire cazzo, che figata questa colonna sonora, ma che e poi scopri, ah, era Final Fantasy 9, cioè anche non avendoci giocato hai una risposta emotiva a una canzone e ti rendi conto di quanto è raro avere una colonna sonora di questo calibro, perché Final Fantasy 15 ha una colonna sonora stratosferica, è incredibile. È una cosa che non si nota più nei videogiochi ora, perché tende un po' a passare in sordina o essere un po' fatta, cioè, la bella e meglio, cercando di come posso dire, di mettere insieme qualcosa. Il 15 poi mi ha veramente stupefatto come colonna sonora. Non so, hai qualcosa da aggiungere? Ah no, io avevo un'altra cosa da aggiungere. Ok, un'ultima cosa anch'io, allora te la chiedo prima io, poi chiudi tu. Qui c'è stato un salto dello squalo? Come, o no, o non c'è mai stato, perché potrebbe anche non c'è mai stato. Secondo me allora, dipende cosa intendi, cioè dici un capitolo che hanno provato a fare, a portare in una direzione e poi ha fallito, intendi questo? Io direi una cosa che hanno, in cui hanno provato di rendere di nuovo tutto interessante, ma hanno avuto un po' l'effetto opposto, cioè allora, per me personalmente sì, ok, però era l'ultimo punto che volevo fare, in realtà coincideva con l'ultima cosa che volevo dire. Allora prego, di pure. Il multiplayer di Final Fantasy 15. Cioè, secondo me, lasciate perdere. Cioè, non cerca... lo so che è costato tanto, per carità, lo so che avete perso tanti soldi nello sviluppo, è durato 20 anni lo sviluppo di Final Fantasy 15. Però perché dovete fare queste cose? Cioè, lasciatele a Final Fantasy 14, no? Cioè, il multiplayer, cioè, per carità, carina come idea così, ma no, cioè, no, lascia perdere. Cioè, non è quello il punto. Vabbè, ok, andiamo avanti, non voglio parlarne troppo. Comunque, per però, i nostri spettatori che non, magari non sanno bene a cosa mi riferisco quando mi dico saltare lo squalo, è un termine che deriva appunto dalla... è stato creato come un riferimento alla serie di Happy Days, al famoso episodio in cui Fonzie appunto salta sopra uno squalo, e è diventato un termine della cultura popolare per indicare appunto un tentativo sbagliato molto spesso di generare un nuovo interesse, creando qualcosa di così spettacolare e scenico per qualcosa che un tempo era molto popolare ma che sta un po' sciamando di interesse, per cercare appunto di renderlo più attirare nuova attenzione, diciamo. E molto spesso tutto ciò ha l'effetto contrario, cioè che mostra quanto assurdo quanto nell'assurdo sono andati a finire gli scrittori, gli sviluppatori, eccetera eccetera. E che, come dicevamo prima, secondo me, per tornare un secondino indietro, Assassin's Creed, secondo me, ha provato più volte a saltare lo squalo e cadendoci anche dentro la vasca, probabilmente. Sì. E mi ricordo ancora... E paradossalmente non l'ha fatto con quel gioco dove ci sono gli squali. Sì. Il Black Flag non è caduto nell'acqua. Giusto per citare una cosa, poi basta Assassin's Creed, mi ricordo che sono rimasto basito quando ho scoperto che in Revelation c'erano parti di Tower Defense. Cosa? Ah, non lo sapevi? Fantastico. No, quando l'ho comprato, quando l'ho giocato la prima volta, no, e quando mi è capitato, cos'è sta roba? Va bene. What? Vabbè. Tower che poi non era neanche... Vabbè, prima o poi parleremo di Brutal Legend. Comunque, usciamo da questa stanza di questo ragazzino e io direi, evitiamo di entrare nella stanza... Stai attento, Marco, non calpestare le Doritos. Non entriamo nella stanza di Call of Duty, perché è il fratellino più piccolo, direi che possiamo lasciarlo lì a insultare le madri dei suoi nemici, okay. Perché appunto di Call of Duty sì, io potrei dire qualcosina, ma io non sono un esperto e immagino nemmeno io. Preferisco evitare e avere un po' più tempo per parlare delle prossime. Ci sta. Vogliamo quindi giusto arriviamo... dire... No, dai, andiamo avanti, magari un'altra volta. Cosa vuoi dire? No, era giusto per citare... Non lo so, perché secondo me vanno citate, perché alla fine sono anche loro le rappresentazioni classiche della cosa, no? Sono quei giochi di cui esce un titolo all'anno, qua veramente molto spesso riciclato e riproposto, quasi praticamente uguale, un po' come... Va bene, allora bussiamo, disturbiamolo e facciamo questa litigata. Apro la porta e poi la richiudo. Ok. Questi sono, lo dico e qua faccio incazzare quante, lo dico, va. Partiamo con il flaming, sono l'iPhone del mondo del video show. È vero, se noi siamo prodotti... Scusa, vai. No, dicevo, per i pochi ascoltatori che ora sono rimasti, sono quei classici giochi, Call of Duty e anche, abbiamo detto, qual era quell'altro? Battlefield, grazie. COD e Battlefield sono quei videogiochi che vengono riproposti ogni anno, quasi come... Battlefield non è annuale. È vero. Quasi come i videogiochi di sport, che però qua non li abbiamo messi perché non mi sembrava il caso, perché lì letteralmente è il gioco che fanno uscire con le facce migliorate dei calciatori o degli altri giocatori di sport con le palle. Attenzione. Scusate. Sono giochi riproposti ogni anno con le stesse meccaniche, principalmente per il multiplayer, e che ormai sono diventati una costante, no? Sono come il Natale, come quando sai che a Natale fanno una poltrona per 2 su Italia 1, qua, sai che ogni anno esce un nuovo COD e siamo tutti contenti. C'è chi lo critica, chi la ritiene una cosa negativa, chi magari è indifferente, ma basta, tutto qui, giusto per dire esiste. E ciao COD, sponsorizzateci ciao. Se volete. E... io vorrei difenderlo, nel senso che, come hai detto tu, no, è come l'iPhone. Secondo me è giusto perché è un prodotto molto ben ripulito, nel senso è un prodotto che quasi ogni anno mantiene uno standard di qualità abbastanza alto, a parte qualche eccezione tipo vabbè, Ghost o l'ultima uscita, certo, o Black Ops, perché riesce un po', secondo me, a evolvere qualcosa, ad evolvere abbastanza il suo multiplayer, o a cambiare abbastanza, o a, per esempio, a me è piaciuto molto l'ultimo Modern Warfare. Non è un gioco perfetto, non è un gioco che non ha i suoi problemi, addirittura alcuni problemi sono, andrebbero un attimo, come posso dire, esaminati da un tribunale tipo a Ginevra per crimini di guerra, ma lasciamo perdere. Okay. Però è un gioco ben fatto, è un gioco che quello che fa lo fa bene. Il problema è che quello che fa è un pochino vecchio e si comincia un po' a sentire. Appunto, parlando dell'evoluzione dei videogiochi, hanno un po' lo stesso problema sia Call of Duty che Battlefield. Battlefield leggermente di meno perché è sempre stato su una scala più grande, una distruttibilità abbastanza diffusa delle strutture, dei vari edifici. Call of Duty sì, sta integrando elementi di più furtività, di come posso dire, di altri giochi, ma è rimasto sempre molto legato al discorso dell'esperienza cinematografica. Call of Duty è un film. Ed è vero che quello che fa, cioè essere un film, lo fa benissimo. Però è un film, quindi se tu sai... Poi ovviamente entri... tu dirai, con tutti i titoli usciti, per dare... tra tutti i titoli usciti, qualcuno peggio, ma qualcuno anche assolutamente meglio, nel senso... Io vi invito a cercare su YouTube la missione di Call of Duty che prende, diciamo, luogo dentro una casa. Cioè tu sei, mi sembra tipo a Londra, e entri, non mi ricordo di preciso, ed entri in una casa di terroristi, di una cella di terroristi. È una cosa che già guardarla mette ansia per come è fatta, ed è fatta benissimo, è inquietante, è una cosa che è come guardare un incidente di treni, cioè non riesci a dissuadere lo sguardo, è incredibile, è angosciante e tutto. Poi sarò banale io, ma c'è da citare anche quella, la famosissima missione nell'aeroporto di, cos'è, sembra... Se era Modern Warfare, no. Sì, sì, cioè molte cose sono fatte per shock. Quella, secondo me, è fatta meglio. Esatto. Ci sono momenti che vale la pena citare perché sono assolutamente ottimi. Perché ricordiamo, ed è questo anche per questo motivo per cui volevo citarla, perché COD e Battlefield sono rispettivamente giochi, i cui primi titoli sono usciti nel 2003 e nel 2002. Quindi hanno comunque, sono maggiorenni anche loro, praticamente. Sì, hanno la loro età. Per cui andavano citati, secondo me. Anche qui ci sarebbe... No, di pure. Anche qui ci sarebbe da parlare di come stanno diventando più dei giochi come servizio, dei game as a service, ma io non sto assolutamente indicando un trend che riprenderemo alla fine. Credetemi. Bene, per parlare di un loro coetaneo, perché il primo titolo è uscito nel 2001, direi, se leggo la lista nell'ordine giusto, no? Ah sì, se bussiamo nella porta accanto c'è il loro fratello che comunque sta mangiando Doritos e bevendo Mountain Dew come loro, ma come dire, sembra un po' più con la testa sulle spalle, o almeno io credo, perché la testa è coperta da un elmetto. Questo fratello è Halo, è... Come tutti sanno, Halo è la storia di un uomo che si chiama Halo, o Halo Guy. Il signor Halo, esatto. Per gli amici, giusto? Con la hack. Esatto. No, beh, Halo è una serie che potrei parlarne per circa 12 ore senza finire le cose da dire, ma... E lo farai, lo farò, tecnicamente lo farò, lo sto facendo. Prima o poi metteremo il link alla serie YouTube, poi, sì, quando uscirà la serie su YouTube. Però l'idea è che Halo anche qui è una serie che è cambiata molto col tempo, rimanendo anche lì fedele a secondo me, al core, cioè alla sostanza di Halo. In alcuni giochi meglio che in altri, però c'era un aspetto... Come? Di Halo. C'era Nathan Fillion, perdonami, certo. Così. Nathan Fillion è parte della sostanza di Halo, è al centro di qualunque altro. Nathan Fillion è Nathan Fillion, non si può fare. No. Non si può fare. È la, come si dice, la celebrità preferita di Chang. Corda, no? Comunque, velocemente, per parlare il più velocemente possibile per me di Halo, è una serie che, appunto, soprattutto in prima persona, di tipologia più arena shooter, quindi è un po' più veloce, un po' più arcade rispetto magari a Call of Duty, meno realistico, meno moderno, più appunto futuristico, fantascientifico, e che dire, sono troppe cose a dire di Halo. Sì. Parliamo solamente di come si è evoluto. Io lo dico da chi ne sa probabilmente nel gruppo di persone che conosciamo io e te, quello che probabilmente ne sa di meno di Halo, perché è una saga che io ho giocato qualche titolo, ho provato, mi sono piaciuti, ma non mi sono mai appassionato alla storia o l'ho vissuta come andava vissuta veramente, probabilmente. E quello che direi io, da profano un po', è che Halo va riconosciuto come il titolo di punta di tutta l'Xbox. Se avevi un Xbox, l'avevi per giocare ad Halo all'inizio, se non sbaglio, no? Perché è stato quello che ha lanciato l'Xbox, come, parlando sempre di Console War nel precedente episodio, è stata come, ha lanciato l'Xbox come l'altra console oltre alla PlayStation, direi, o sbaglio qua? Sì, è un po', è innegabilmente è la killer app, tra virgolette, dell'Xbox. Esatto. E due, che ha sparato la Bungie, la casa di produzione, tra quelle di altissimo livello, perché c'è un motivo se ha avuto così tanto successo, che la casa di produzione, la Bungie, ha fatto un lavoro della Madonna. Veramente, il primo gioco, tra l'altro, si chiamava Combat Evolved, Halo Combat Evolved. Esatto. E effettivamente, come spara tutto, ha fatto, se non ricordo male, dei grandissimi passi avanti come sparatutto. Non era una cosa arrogante, diciamo, era davvero evoluto. Aveva tante innovazioni, tante cose, non solamente perché era il primo titolo giocabile bene su console, non insultatemi, fan di GoldenEye. Cioè, ha tantissime innovazioni che non sto qua a dire. Cioè, non voglio entrare troppo nel dettaglio di Halo Combat Evolved, voglio solo dire che se avete giocato uno sparatutto negli ultimi 12 anni o 15 anni, probabilmente ha preso molte idee da Halo. Se guardate l'evoluzione degli Halo, dei capitoli successivi di Halo, ovviamente della saga principale, rispetto al primo, secondo me molti elementi di gameplay sono andati un po' ad essere rifiniti più che rivoluzionati. Per me la vera rivoluzione è stata prima in parte in Halo Reach, che è il quarto o quinto capitolo, a seconda di chi chiedi, che è una specie di prequel. Nell'elenco mi dà Halo 2, Halo 3, Halo Wars, Halo 3 ODST e poi Halo Reach. Halo Wars è uno strategico, quindi non... Ah, ok, no, perché... Ah, no, ok, perfetto. Allora, il quarto di... Quarto o quinto, se Halo 3 ODST va considerato a parte, però comunque l'idea è che in questo capitolo, oltre ad avere le solite cose che si ha in un Halo, quindi il bello scudo, la salute, a seconda del titolo, due armi solamente, qualche granata, così hai anche un'abilità, che è un'abilità propria dell'armatura, insomma, quindi la corsa o il jetpack, un'abilità che si ricarica, che ora sembra banale. Dici, ah, vabbè, ok, e quindi? Perché in ogni gioco c'è un concetto di abilità, no? Tipo in Overwatch, in Apex, però al tempo era una cosa molto strana, era una cosa un po' alla Call of Duty, quando è uscito Halo Reach. Ricordiamo, però, secondo me, nel 2010. Esatto, è una cosa un po' che ha stravolto un po' la saga, e come direzione ci stava, però ha cambiato molto il gioco effettivamente, cioè è un dettaglio che nel multiplayer e nel single player ha cambiato un po' dei modi di giocare, e molti si sono lamentati per esempio del fatto della corsa, perché poi nei capitoli successivi si è un po' andati in quella direzione, si è un po' andati nella direzione di dire ok, lasciamo perdere il discorso di dei precedenti capitoli dove tu in ogni momento potevi sparare, tutti quanti erano sullo stesso piano eccetera, diciamo aumentiamo tantissimo la capacità di movimento dei giocatori, quindi la direzione in cui è andato Halo è di facilitare molto il movimento, di aggiungere vari dodge, salti, cioè ed è, sembra che sto andando molto nel dettaglio, ma in realtà è una cosa molto importante per la community che ha fatto incazzare tante persone, secondo me, perché molte persone, ah, che cos'è Titanfall? O, ah, che cos'è? Cioè, non è più Halo, non puoi più sparare mentre fai questa cosa. Comunque, c'è un sacco di fanatici che sono molto legati all'idea originale di Halo, quindi Halo 1, 2, 3, che erano molto più simili fra di loro, soprattutto Halo 2 con il 3, però... per me non è quello il problema, il vero problema di come si è evoluto Halo è la trama, perché dopo Halo Reach, quindi con il 4 e con il 5, il gioco è diventato più lineare, ma soprattutto con il 5 la trama ha perso di lucidità, si è molto confusa. Già con il 4 si avvisava un po' questa idea che fosse un gioco che non era propriamente un Halo, però con il 5 è davvero una cosa che si nota molto di più. Ci sono degli spunti che, se te li dico, sembrano interessanti, ma nel gioco, nella trama, sono sviluppati in maniera, per me, non troppo ottimale, insomma. Quindi io sono uno che Halo 5 non l'ha odiato, ma comunque riconosco che la serie ha un pochino saltato lo squalo, diciamo, con Halo 5. A me non dispiace come gioco, però capisco chi ha un po' di problemi, e ti spero appunto in Infinite, perché appunto sta per uscire quello che tutti vedono come salvatore, che sarà l'Infinite autunno 2021. Sì, quindi vedremo. Il tempo ci dirà se la serie è tornata agli sfarzi. Bene, ora, se hai qualcosa da dire, altrimenti io chiuderei anche questa porta e ci sposterei nella sala da pranzo. Ah, dove ci sono i nostri due grandi ospiti, no? I nostri due grandi ospiti, i nostri due antenati, i nostri due nonni, che questi sono di visitarci. Esatto. Queste sono due saghe che... o due serie, ma chi lo sa. Due serie che hanno la S maiuscola, rispettivamente dell'85 e dell'86, Super Mario e The Legend of Zelda sono le due saghe di punta, e di nuovo, saghe o serie di punta della Nintendo, insieme ai Pokémon. Però no, scherzi a parte, sono i due titoli che hanno lanciato la Nintendo come la casa di videogiochi che è quest'oggi. Super Mario è uscito per il NES nell'85 e The Legend of Zelda sempre per il NES nell'86, un anno dopo. E qua non so neanche cosa c'è da dire, cioè sono saghe che hanno definito il mondo videoludico e che, rispetto ad altre serie della Nintendo, sono serie che hanno avuto il coraggio di reinventarsi, di riproporsi in maniera innovativa più volte, e per questo più volte sono state acclamate come migliori titoli per le loro console, per le varie console della Nintendo, sempre che su cui giravano. Abbiamo avuto, per citarne qualcuna, a parte i primissimi titoli delle varie cose, Super Mario si è riproposto con Super Mario 64, per dirne uno, e ha spaccato tutto. C'è stato poi, cos'era? Alla fine Sunshine e Galaxy, buoni, ottimi, ma c'è stata Odyssey qualche anno fa, che di nuovo ha spaccato tutto. C'è Anche Galaxy, secondo me, però anche vabbè, Galaxy, sono di parte. Anche Galaxy, quello, ci sono, forse era Galaxy 2 che mi ricordo, era stato un po' meno amato, non ricordo benissimo. Sì, sì, Galaxy 2 aveva cose problematiche con Yoshi, problemi con l'associazione protezione Yoshi. E per citarne alcuna, stessa cosa per la Zelda, che è primissimo gioco, poi abbiamo avuto Ocarina of Time nel 98 che ha spaccato tutto. Ci sono stati quei titoli un po' più, non dico secondari, ma più strani rispetto a quello normale che si aspettava la gente, come Wind Waker, Skyward Sword. In realtà avevo letto che non era stato molto acclamato, e in effetti potrei dargli anche ragione. Era innovativo sotto certi punti di vista, ma non è stato rivoluzionario. Io direi molto di più Twilight Princess, che è stato il titolo di lancio della Wii. Io mi ricordo nel 2006 quando ho preso la Wii per giocare a Twilight Princess, che impazziti. Io non era sorella. Anche su GameCube quel gioco, ricordo male. Sì, esatto, perché la Nintendo c'ha questa cosa strana di far uscire sia per la console precedente che poi quella nuova, perché sia Twilight Princess che mi sembra anche Breath of the Wild. Può essere sì che anche Breath of the Wild fosse per la Wii U, o ricordo male, sì, sì. Wii U e Switch. E appunto Breath of the Wild ha spaccato tutto, cioè lì la Nintendo ha osato, ha fatto qualcosa di più, ha creato un gioco diverso dai titoli precedenti, perlomeno non tanto nell'anima, nei concetti alla base, ma nelle meccaniche, nel gameplay, nel gioco vero e proprio. Ed è per questo, è stata acclamata, è stata premiata, giustamente. Non saprei che altro aggiungere in questo caso, perché ne abbiamo parlato già così tanto, già non solo noi, ma il mondo ha visto quanto sono stati rivoluzionari questi titoli, che Jacopo, tu hai qualcosa da dire, aiutami. Sto perdendo le parole in questo momento. È difficile parlarne, secondo me, e elogiarli senza entrare troppo nel dettaglio, però per parlare di un po' come si sono evoluti, come hai detto tu, quasi ogni capitolo ha portato qualcosa di nuovo, di rivoluzionario, a volte rivoluzionando interamente il genere a cui apparteneva quel capitolo. Gli esempi più egregi sono anche più recenti, secondo me. Cioè, è vero, verissimo. A parte Super Mario 64, che ha rivoluzionato interamente il mondo dei platform in terza persona, perché non esistevano in 3D, cioè quasi per niente. Vero. Per me Breath of the Wild ha dato veramente un respiro di aria fresca al genere open world, e la stessa cosa Mario Odyssey ha un po', secondo me, mostrato come si può fare un platform. Mi ha fatto sentire come Spider-Man, giusto? Mi ha fatto sentire come una rana. No, è veramente, cioè, prima di Mario Odyssey non esisteva, o meglio, era un po' andato a sparire il concetto di platform 3D. Secondo me con Mario Odyssey hanno dimostrato che è ancora possibile avere idee nuove, divertenti e, per carità, che vendono, che fanno soldi, con un platform, con quello che essenzialmente è un platform 3D. Una delle cose che mi ha sempre più... Scusa, no, non volevo... Vai pure, di pure. Vai. Una delle cose che mi ha sempre più impressionato è come... L'esempio che mi viene di più è sempre con Breath of the Wild, ma che è un gioco di Zelda, però non è un gioco di Zelda. Cioè, più volte questi titoli di questa serie, perché è una serie, che, di nuovo, sempre per fare riferimento, come dicevo prima, simile a Final Fantasy, mantiene quei concetti, quegli elementi singoli dell'universo del gioco in ogni titolo, ma reinterpretati, revisionati. E molto spesso tu dici, è uscito un nuovo Zelda che non lo senti minimamente come i vecchi Zelda, cioè è proprio una sensazione nuova, è come una qualcosa di completamente diverso con addosso il cappotto familiare di Zelda. Che brutta, diciamo, metafora. Sfrutta la nostalgia per costringerti a giocare qualcosa di nuovo. ma non è neanche quello, cioè, perché così sembra quasi che sfrutti proprio brutalmente una cosa, come quando mettono il Pikachu da qualche parte, ti dice, ah, è dei Pokémon, voglio... Senti Marco, tu hai insultato Assassin's Creed, io insulto Zelda, ok? Voglio quel cuociriso perché c'hai i Pokémon sopra, no. Qua lo spirito del gioco rimane lo stesso, ma... il gioco, le meccaniche, la sensazione che si ha quando si gioca riesce a cambiare, ed è una cosa che io ogni tanto mi chiedo come cacchio ci riescono, perché io mi sorprendo quando succede, perché se ci giochi ci sono sensazioni veramente diverse da giocare il primo Zelda a quelli poi come Ocarina of Time e successivamente Twilight Princess e Breath of the Wild. Se tu li provi a giocare uno dopo l'altro, ti sembrano giochi così tanto diversi, ma che riescono a mantenere il senso, ognuno di essi il senso tra di loro, che quasi non capisci cosa sta succedendo. O almeno è successo così a me. Quindi che dire, complimenti ancora Nintendo, sei sempre nei nostri cuori, per favore sponsorizzaci. E come diceva Rick, send us some shit. Che altro dire? Chiudiamo anche questa porta o c'è qualcos'altro? Io direi che possiamo spostarci dalla sala da pranzo e entrare in cucina, dove ci sono... Dovrei farmi vedere la mappa di questo palazzo. Esatto. Questo palazzo dove ci mentale. Sono due saghe ai fornelli con due approcci completamente diversi, secondo me. La prima è Elder Scrolls, la seconda è Monster Hunter. Vabbè, Monster Hunter c'è proprio un focherello e ci sta girando una sono coscia i di noi dinosauro. Quindi... Esatto. Ma ignoriamo la coscia di dinosauro per il momento e concentriamoci su questo vecchietto con una tunica che sta concentrato a leggere una ricetta. Elder Scrolls è una saga che io... ho cominciato a seguire con Morrowind, a cui ho giocato veramente, penso, un'ora. perché Morrowind era un'esclusiva per Xbox su console ed è lì che l'ho giocato. Non mi ricordo molto perché appunto ci ho giocato pochissimo, erano tanti anni fa. Però Morrowind è stato un po' l'esempio di un esempio di gioco open world in tre dimensioni, con elementi appunto, era un gioco di ruolo, ma anche un esempio di come rendere interessante l'esplorazione, comunque, perché, diciamo, invece di dirti vai in questo posto e metterci un segnalino, ti diceva c'è a destra da qui una città con questa caverna, dentro la caverna, cioè ti raccontava la storia della persona che aveva fatto questo viaggio, dovevi un po' riseguire i suoi passi, per fare un esempio. E questo è un esempio di un elemento di quel gioco che secondo me era molto moderno all'epoca e adesso stanno cercando di riprendere i giochi tipo Assassin's Creed o altri giochi. Cioè invece di dirti vai là e poi vai là, devi essere tu a capire dov'è questo posto, come arrivarci, eccetera. Questa è l'unica cosa che mi ricordo di Elder Scrolls ed era per dire che secondo me Oblivion e Skyrim sono delle evoluzioni, ma... non completamente nella direzione giusta. Cioè, secondo me, la serie di The Scrolls si è evoluta in una direzione molto... Cioè, per fare un paragone con il cinema o con i videogiochi, o con le serie TV, la saga di The Scrolls è come CSI. Nel senso, è qualcosa di prevedibile, procedurale, è una robetta riscaldata... semplice e come posso dire in italiano? Straightforward, cioè diretta. Non è se tu pensi a un gioco RPG per le serie, che dovrebbe essere appunto una di quelle serie con la ricetta. Esatto, è una serie secondo me un po' con la ricetta. Per carità, ha tantissime idee e implementazioni di idee di sistemi interessantissime, tipo in Oblivion nel discorso della routine dei personaggi, quindi tu ti guardavi intorno, vedevi persone che facevano cose e avevano delle avevano dei piani della giornata, avevano delle agende, quindi a quest'ora devo fare questo, a quest'ora devo fare quest'altro. Non tutti, però molti. Quindi cioè, fanno comunque delle cose interessanti per renderti il gioco più vivo, l'ambiente più vivo, e non voglio negare che mi siano piaciuti, sia Oblivion che Skyrim ci ho giocato tantissimo, mi sono piaciuti tantissimo, però è molto molto standard, è un gioco che ormai, come posso dire, secondo me ha bisogno di una svecchiata generale come sistemi, perché giocare ora soprattutto a Oblivion non è come giocare a un Halo, cioè sono invecchiati peggio secondo me di quanto ci ricordiamo. Ci sono tante cose che non sono più tanto scusabili a livello di sistemi e altro, quindi per me è una serie che deve un po' riscoprirsi, deve tornare un po' a capire che cosa rendeva unica questa ambientazione, che cosa rende unica la dinamica che c'è fra le varie fazioni, fra le varie ambientazioni, a trovare un modo per esprimere quelle meccaniche che ci sono da sempre, perché il gioco, vabbè, è sempre lo stesso mondo, forse questo va detto, cioè, c'è solo un mondo, no? C'è solo un grande continente diviso in varie zone, c'è la zona di Skyrim, c'è la zona di, mi pare che si chiami Cyrodiil, cioè sono diverse zone di questo continente in cui sono ambientati questi diversi giochi. C'è Elder Scrolls Online, che mi pare che vi abbia tutte o quasi queste zone. Penso che le espansioni ormai ci siano tutte. Può essere. Comunque sì, è una cosa a parte, però io sto parlando della saga, quella principale. Certo. Per me... Però io non sono il più grande fan della storia, forse dovremmo chiedere a Gianfi quando faremo l'episodio su The Elder Scrolls, però... È molto rigiocabile, ci sono tante cose positive, però sì, cioè, per me va un po' svecchiato come a livello di meccanica, non so cosa ne pensi tu. Non so, io allora conosco la saga, ma più per sentito dire e per, chiamiamolo studio, mi sono un po' informato, ma purtroppo ho avuto l'opportunità di provare solo Skyrim molto in profondità e Oblivion un po' meno in profondità, e si sente già una grandissima differenza tra Oblivion e Skyrim. Sono due giochi che in quanto a meccaniche e feeling sono completamente diversi, ed è strano perché in Skyrim c'è stata assolutamente un'evoluzione rispetto ad Oblivion, è più immediato, è più approcciabile anche, però c'è stato sia un miglioramento che un peggioramento, nel senso che a me il mondo sembra più falso in Skyrim. Vero, vero, sì, decisamente ci sono state è peggiorato il world building, quella è una cosa che hanno detto in tanti, è che il mondo di Skyrim si sente un po' incoerente, ma anche un po' di, mettendo un po' da parte la storia, anche a livello di meccaniche di gioco, si sente che in Skyrim sembra quasi incompleto. Skyrim sembra come se ci fosse una bellissima base, ma poi questa base non è stata così sviluppata, mentre in Oblivion la profondità del gioco ogni tanto impressionava, anche soprattutto mi ricordo il sistema delle magie e sì, dei vari effetti dello sviluppo dei personaggi, che era anche lì a volte stupidamente complesso, però era profondo e ci potevi perdere un po'. Skyrim è stato sì reso più approcciabile, reso più come dire, semplice sotto questo punto di vista, ma è stato semplificato l'approccio mai più approfondito. Non ti dà quelle stesse sensazioni, è difficile da metterci il dito sopra, diciamo, per specificare la cosa. Capisco. Però Skyrim manca qualcosa, Skyrim. Non c'è più quella sensazione forse di così grande avventura epica come c'era un po' di più per Oblivion. E vediamo che cosa faranno con il 6. Io non so, adesso Todd mi spavento un po', ma... Per favore, senpai, Todd senpai. Al massimo possiamo giocare a The Elder Scrolls 5, Skyrim, Pinball, ho scoperto che esiste. Wow, ok. La pagina di Wikipedia. Era quello che mancava, cazzo. Ma passiamo all'altro gatto che sta girando quella bella coscia di dinosauro. Esatto. No, mi spiace, che gente, dire? Io sarò di parte, ma secondo me Monster Hunter è una delle, anche qua, forse più, un po' più saga, in questo caso non ne sono sicurissimo, saga più assurda, cioè Monster Hunter, io, secondo me il gioco è solo migliorato dal primo titolo, wow, che hanno fatto fuori. Io okay, qua lo dico. Io, perché in realtà ho anche provato, non il primissimo titolo, oddio, è vero che c'è il film adesso, stavo cercando Monster Hunter. No. Non parliamo di film quest'oggi, che non ci vuole di deprimermi, ma la saga di Monster Hunter, che è partita nel 2004 con il primissimo titolo, che non sono sicurissimo sia uscito, no, è uscito al di fuori del Giappone, ma in Italia almeno nel 2005, io cosa avevo? 2005 avevo 13 anni, quindi l'ho un po' ignorato forse. Io ho iniziato a giocare quando è arrivato sulla PlayStation Portable, perché sì, signori, ho avuto la PlayStation Portable, la prima. Bellissima console. La prima grande roba. Io ho iniziato a giocare sulla PlayStation Portable e tanta roba, no. Era partito con una base già... Questo è proprio un gioco giapponese, qua io non so, qua si sente il giapponese, ma proprio tanto tanto, perché sei tu giocatore che combatti contro i kaiju, e non si può dire, sei tu contro i kaiju, e il primo era partito bene, si sentiva che era ancora un po' acerbino, magari i combattimenti erano un po'... un po' spigolosi, ecco la parola che cercavo, in certi punti, e potevano essere migliorati, ed è quello che hanno fatto. Qui sono stati bravissimi, hanno capito che il punto principale della saga è il combattimento con i mostri, e non hanno fatto altro che migliorare il combattimento con i mostri per tutta la serie. Adesso i moveset, le meccaniche di combattimento si sono approfondite, sono diventate più fluide, più proprio il feeling è diventato molto molto epico, e questa la parola, è questa la parola che rappresenta i Monster Hunter. E Monster Hunter è l'epicità fatta persona, cioè fatto videogioco, tu che indossi le parti dei mostri che ammazzi e usi gli spadoni più grandi di te per ammazzarli di brutto. Ma no? E, che dire, complimenti di nuovo qua anche alla Capcom, però va detto che hanno anche loro cercato di saltare lo squalo una volta. Oddio, con il senza ammazzarlo? Senza ammazzarlo, anzi ci sono volutamente entrati dentro, perché hanno provato a fare i combattimenti acquatici nel tipo terzo, non è proprio il terzo perché anche qua come far uscire i titoli è un po' più complessa la cosa, nel senso tra un titolo principale e l'altro uscivano dei sottotitoli che erano delle, come delle espansioni, quasi come, sì, mi spiace sempre tornare lì, ma sempre quando nei Pokémon esce Rubino, Zaffiro e poi Smeraldo, ecco, stessa cosa, c'era Monster Hunter e poi c'era tipo Monster Hunter qualcosina in più, che era lo stesso gioco con un cuoio di meccanica in più, un po' di espansione, ma la base era ancora quella. E con il terzo, tra virgolette, capitolo della saga, Monster Hunter 3, hanno voluto provare a fare i combattimenti subacquei, che poi hanno tolto perché hanno visto che non era proprio il caso. Però anche lì, come dire, ci hanno provato a reinventarsi, erano interessanti di loro, funzionavano un po' male, però tutto sott'acqua funziona male nei videogiochi, purtroppo questa è una di quelle verità che è stata accettata ormai. E adesso con Monster Hunter World, e è uscito letteralmente credo ieri o l'altro ieri la demo di Monster Hunter Rise per la Switch, io cioè bravi, purtroppo a questi giochi qua io non mi ci approccio più, perché quando a un certo punto ho visto che avevo tipo 500 ore in quello della PlayStation portatile, mi sono detto magari forse della tua vita dovresti fare qualcos'altro, poi ancora siamo messi male anche lì, però se mi fossi preso Monster Hunter World, chi lo sa se... non so se Jacopo avrebbe avuto qualcuno con cui fare il podcast a questo punto, o mi avrebbero ritrovato a un certo punto morto, appiccicato alla sedia. Il mondo avrebbe un platino di effetti in meno, sicuramente. Non avessi più pensato a Binding of Isaac. lasciamo perdere, non farmi pentire, Jacopo. Però no, giusto per dire, gioco veramente ben costruito, con meccaniche di RPG e le statistiche che piacciono davvero tanto ai giapponesi, e che in questo caso sono anche, bisogna dirlo, molto fatte bene, perché una delle cose principali che si scopre sempre è che i giochi giapponesi sono bilanciati un po' col buco di culo alla prima versione, mentre qua in Monster Hunter qua sono ottimamente bilanciati anche in questo caso. Ha un gran design di armi e mondo di gioco assurdo, e come dire, anche dei giochi secondari che hanno spopolato tutta la questione dei feline, degli adorabili gattini che sono i tuoi compagni di avventure in questo mondo, che hanno fatto la storia. E infatti adesso, oltre ai gatti, hanno aggiunto i cani, e lì è finito tutto, perché se prima non ti piacevano i gatti, adesso ci sono i cani, quindi a posto. No, tutto sommato direi una delle serie al di fuori della Nintendo migliori che abbia mai incontrato. Quindi tu non cambieresti nulla della direzione che stava prendendo, insomma? No, cioè, personalmente no, anzi, secondo me ci potevano essere un po' di dubbi prima di Monster Hunter World, ma una volta che è uscito World, bravissimi, complimenti, okay. Sono riusciti a fare l'online anche al di fuori del Giappone, quindi bravi. Piccolo dissing in questo complimento, però va bene. È vero, forse un po'. Però quindi al gatto che sta cucinando la zampa di dinosauro facciamo pollici su. Ma continua così. Non c'hanno il pollice i gatti, però sì. Basta che non vada a fuoco tutta la cucina. Volevi aggiungere qualcosa? Scusami, ti ho interrotto. No, direi di no, penso di aver detto più o meno tutto. Perché alla fine, vedi, purtroppo a me capitano le serie belle in cui c'è solo da dare elogi, non ci sono più... Che tu sei coincidenza! Quello... Che strano, quasi come se piacesse la merda. No, allora... O forse sai adesso... che se mi dai quelle brutte faccio un altro rant come i Pokémon. No, adesso ci spostiamo in una zona un po' più complicata. E usciamo dalla parte, diciamo, principale del palazzo e entriamo nel garage, pieno di auto... lussuose, da corsa, okay. E sfondiamo la finestra di una di queste auto perché si parla di Grand Theft Auto, quindi una saga che ha fatto del furto di auto il marchio della serie, infatti è il nome della serie, per dire appunto furto di auto. E la vuoi sapere una cosa, Jacopo? Questa non so se te l'ho mai detto, ma io non ho mai giocato a un Grand Theft Auto in tutta la mia vita. Possiamo finire qua il podcast, cioè chiudiamo qui e... Io purtroppo ero uno di quelli cui la mamma non faceva giocare i titoli. Non ci credo. Non ci credo. E devo ammettere, non ho mai capito, forse nemmeno di mio personalmente, l'interesse del gioco, perché però... Io alla fine ero sempre stato più per fantasy, appunto, giochi di ruolo e così, e quindi l'interesse per GTA non l'avevo mai capito da piccolo, e non mi è mai capitato di provarlo, anche perché erano per console che non avevo. Però... Ok, ti faccio una domanda però. Sì. Hai mai ucciso qualcuno? Tieni nella vita vera, non penso di poterlo dire. Allora ha funzionato, tua madre aveva ragione. Vedi? Funziona. Non ho mai nemmeno rubato causa violenza. No, ci penso. Comunque no, vabbè, capisco. È un gioco che deve avere un po' di, secondo me, di violenza repressa per giocarlo. In realtà confesso che... No, non è vero. È una power fantasy, cioè... È semplicemente tu giri per la città e pensi, cavolo, mi piacerebbe proprio, che ne so, rubare quella macchina e andare a 180 in una zona dove, se ne, dove si fanno 50. Cioè, è pieno di momenti, secondo me, come posso dire, di escapismo? Come si dice? È una cosa che ti permette di fuggire dalla realtà. Sì, ci sta. Cioè, di fuggire dalla realtà, di avere un'esperienza esagerata della realtà. Ma per me c'è la mia attrattiva. Power fantasy sia assolutamente perfetto, no? Perché alla fine sei tu che fai cose che nel mondo vero non potresti mai. Esatto, tipo guadagnare soldi, avere una stabilità finanziaria, esatto. Essere impiegato, tutte queste cose realistiche. Quindi, no, beh, è divertente perché alla fine qualsiasi cosa puoi farla, e questo è il sogno del gioco, anche se non è vero. E per me è divertente anche perché lo fa in maniera satirica, cioè lo fa continuamente screditando e punzecchiando le ipocrisie americane, le ipocrisie occidentali del capitalismo e del mondo moderno, anche in giochi del passato, cioè anche in giochi che sono ambientati negli anni 80 o negli anni 60, quello che è, comunque trovo occasione di fare satira, di fare commenti su quell'epoca. Per me il gioco più potente in questo senso è stato Vice City, però anche, per carità, anche GTA V, anche San Andreas, per carità. E qua invece sono io che faccio, invece, no, sono sempre io che faccio l'ignorante della saga in questo caso, ma quindi c'è proprio una saga, cos'è, una storia che collega GTA 1 a 5? No, non c'è, è tutto lo stesso mondo, è tutta la stessa, cioè... Sono le stesse città, le stesse persone a volte, tipo, che ne so, GTA 4 è ambientato nella stessa città del 3, che è Liberty City, che sarebbe New York. Però non è un reset alla Final Fantasy, eh? Non è un reset alla Final Fantasy, è la stessa città, semplicemente con più dettagli, ma i nomi delle persone a volte sono... Ci sono personaggi che sono condivisi fra più giochi, ma sono magari più vecchi o più giovani... Ci sono riferimenti a GTA San Andreas in GTA 5 perché è la stessa città, o almeno la stessa zona. Cioè, è lo stesso mondo. Ok, ed il protagonista è sempre, come dire, un uomo di strada, no? Un membro di una gang, forse, si può dire. No. Sì, più o meno sì. Un uomo normale, di solito, o una cosa del genere, cioè... Più o meno sempre, si parte sempre dal basso, più o meno. Ah, quello è il classico gioco della scalata al potere, no? Esatto. No, io quello che voglio dire è che GTA mi piace la direzione che sta prendendo dal punto di vista del single player. Cioè, mi piace che dopo il 4, che è un po' stato un po' un momento... Non voglio dire basso, cioè non ha saltato lo squalo, ma... C'erano tante cose, tante piccole cose che non funzionavano. Mi piace che il 5 abbia deciso di fare cose come tre personaggi principali con tre punti di vista differenti, una trama un po' leggermente più complicata del solito. Ma quindi anche molto profondo di trama il gioco? O... Se ci vuoi guardare un po' di satira, sì, non è così idiota come sembra. Ci sono parecchie critiche. Nascoste nel gioco, a volte non nascoste per niente, però sì, cioè. Ecco, ho più voglia di provarlo adesso di quando tipo avevo 15 anni o 16. No, aspetta, non prende, cioè alla base rimane comunque un gioco cazzone. Sì, no, ovviamente, però veramente ho più voglia di provarlo adesso giusto perché so l'impatto che ha avuto, tutta la storia che c'è dietro. Comunque è un umorismo particolare, quindi se non piace capisco. E la cosa invece che mi dispiace, la direzione che sta prendendo, che ormai ha preso, è il multiplayer, che è veramente uno dei multiplayer più avvoltoi della storia dei videogiochi. Cioè, pieno di microtransazioni che non sono tanto micro, pieno di persone che si approfittano di, appunto, del fatto che hanno tanti soldi nella vita vera e nel gioco per... Sembra quasi un game as a service, come lo descrivi. È un game as a service, ma soprattutto è un game as a service con il pay to win, con il famoso pay to win. Cioè puoi pagare per avere un modo per essere praticamente talmente più... per avere talmente tanti strumenti di morte che puoi davvero metterti di punta a a bersagliare una persona e appena rinasce la ammazzi, cioè appena spunta da qualche parte quella persona muore. Cioè puoi fare, puoi davvero rendere la vita un inferno a chi gioca a quel gioco, se vuoi. E la gente lo fa, perché è un gioco che lo come si dice, che non disincentiva, che incentiva anzi la tossicità, no? La rivalità, combattersi nella strada così. Non è un gioco molto pacifico, per forza di cose, il capitalismo. Vabbè, comunque, lasciamo perdere questi commenti politici e questa macchina a cui abbiamo rotto il finestrino la lascerei qua, in realtà. Dici, è un peccato avergli rotto il finestrino per poi non usarla, però vabbè. Però ecco, diciamo solo, quindi in generale la serie sempre migliorata durante il tempo? Nel tempo? Diciamo di sì, più o meno, a parte un piccolo blip con il 4. Direi che se consideriamo solo il single player, per me la direzione è giusta e sono fiducioso per il 6. Ottimo. Spero che appunto non guardino a Red Dead Redemption 2 come un esempio da seguire. Comunque vabbè, lasciamo perdere questa macchina se non hai altro da aggiungere. Oh, aspetta, sono curioso giusto di vedere. Aspetta, dov'è? Oh mio Dio, il primo gioco è del 97, non pensavo fosse così vecchio. Non ne avevo idea. Wow. Va bene, allora ci spostiamo in giardino perché c'è una porta segreta. C'è questa porta segreta che è una... Questo tour da... Esatto. Da immobiliare mi sta facendo impazzire, è bellissimo, dobbiamo farlo più spesso. C'è una porta segreta che ci porta alla penultima stanza di questa visita. Nel seminterrato, anzi nel rifugio antiatomico, è quello che volevi dire. Esatto, c'è un rifugio antiatomico, c'è un bunker dove parleremo un po' di questi cimeli degli anni 50 che sono qui dentro. Perché è qui che si nasconde il nostro caro vecchio amico Fallout. Ora, tu hai più da dire. Fallout. Io cercherei un po' di, come posso dire, anche qui di ridurre il più possibile, perché secondo me Fallout si merita un episodio a parte. È vero, probabilmente è vero. E sì, io ho più da dire, ma abbiamo già detto tanto nelle precedenti puntate. Fallout, che tra l'altro anche lui del 97, come GTA, a quanto pare. GTA. Primissimo uscito, ma in realtà c'è quello che avevo da dire io, l'ho già un po' detto, cioè finché lo fa l'Obsidian o quello che c'era prima dell'Obsidian, di cui già non mi ricordo più il nome, che cos'era, aspetta, adesso non lo troverò mai, vabbè, dopo lo cercherò, finché lo fa l'Obsidian, Fallout spacca i culi, quando fa la Bethesda, un po' meno, diciamo. E quindi Fallout 1 e 2, che sono i primissimi titoli originali che hanno lanciato, che hanno fatto diventare famosa la casa di produzione, di cui adesso mi sta sfuggendo il nome, ma che poi praticamente è diventata l'Obsidian Entertainment, perché tutti i membri di quella casa di giochi, quando purtroppo è chiusa, hanno formato, sono andati per la maggior parte verso in questa nuova casa di sviluppo. Sono dei titoloni fantastici. C'è stato poi Fallout 3, dopo che la Bethesda ha comprato l'IP, che purtroppo in quanto a storia c'è caduto parecchio, e che, come dire, ha cercato subito di saltare lo squalo, anche se secondo me non ne aveva bisogno, perché voglio dire, ha saltato lo squalo con città costruite su bombe atomiche e camere, interruttori che potevi premere solo tu, a quanto pare. Poi c'è stato New Vegas, che penso che gli ascoltatori, se hanno ascoltato una qualsiasi altra puntata di questo podcast, sanno che cosa ne penso, che è un gioco della Madonna, fatto appunto dall'Obsidian, seguito poi da Fallout 4 e successivamente da Fallout 76, con vari spin-off, eccetera, eccetera. Ma il succo è quello, quando li fa la Bethesda possono anche provare a migliorarsi con nuovi motori grafici, nuovi, cambiando completamente le meccaniche, perché ricordiamo che prima era un gioco isometrico si chiama, sì, a turni, sì, di che usava le meccaniche dei che usava la meccanica dei GURPS, se non ricordo male, del sistema di roleplay di gioco da tavolo. Ah, incredibile, non sapevo. Credo, o più, comunque una versione leggermente modificata, e, che poi è diventato action, sparatutto in prima persona con Fallout 3, e è continuato in questa direzione. E io spero veramente tanto che l'Obsidian adesso faccia qualcos'altro di Fallout, perché è veramente bello. Tratta anche... No, senti, non mi posso perdere troppo in questa... Ci sono temi fighi, storie molto fighe, il mondo è costruito ottimamente quando lo fa l'Obsidian. Vi prego, fatene ancora, ne vogliamo. Ora è possibile, ora posso. Ora è possibile, ora infatti per quello, ora è possibile. Dai. E parliamo quindi di... Non giocate a Fallout 76, fatelo per me, non giocateci. Parliamo però di come si è evoluta, quindi secondo te la direzione, ignorando Fallout 76, la direzione che ha ora Fallout come serie, cioè se immagini un Fallout post Fallout 4, sia dell'Obsidian sia della Bethesda come direzione, cioè non necessariamente l'altro, cioè ti piace la direzione che sta avendo? È interessante perché è anche un po' strano la direzione in cui si è voluto con il 4, perché non ricordo esattamente la data, ma mi sembra che sia passato un grandissimo lasso di tempo tra la timeline di New Vegas e del 4. Mi pare di sì. Per come era stato raccontato, perché il protagonista si era praticamente risvegliato 200 anni dopo il Fallout, appunto, e aveva lasciato un grandissimo buco. E anche lì non sono sicuro che la Bethesda abbia pensato bene a quello che stava facendo in quel lasso di tempo. Però... Non lo so perché. Perché... Ti spiego da dove nasce questa domanda. Spara. Sembra che te l'ha sparata così a casaccio. Cioè, per dirla velocemente, Obsidian RPG, Bethesda first person shooter con roba RPG. Guarda la differenza che c'è fra Fallout 4 e Outer Worlds, non Outer Wilds, ma il gioco Obsidian. Certo. Cioè, tu pensa, cioè. Secondo te, quindi, la direzione della Bethesda non va troppo bene, ma se il prossimo Fallout fosse di Obsidian, la direzione di Outer Worlds potrebbe essere buona? O comunque, in ogni caso, vanno un po' riconciliate? Devo ammettere che Outer Worlds non sono così esperto. Perché in realtà non sei convinto, insomma. L'ho affrontato solo da un punto di vista di storia. Perché alla fine il gameplay è interessante, divertente, assolutamente, ma non è uno di quei gameplay che definirei profondo. Puoi differenziare il tuo personaggio, puoi creare vari tipi di build, ok, ma alla fine devi sparare la gente, al massimo colpirla con i piedi di porchi. Diciamo che il gameplay non ti dispiacerebbe se in entrambi i casi... Il gameplay... È buono, cioè il gameplay non ho nulla da criticare in questo caso. Ah, ok, va bene. Il Fallout New Vegas fa alcune cose un po' diversamente rispetto al 3, che è quello su cui è costruito, ha usato lo stesso engine un po' modificato, giocando nelle componenti. Anche lì, per quanto riguarda la profondità di gameplay, probabilmente l'Obsidian ci ha pensato un po' di più, sotto certi punti di vista. Mentre la Bethesda... Un po' come ha fatto con Skyrim, un po' come diciamo prima per Elder Scroll, ha fatto tutto molto per renderlo più accessibile, ma allo stesso tempo l'ha reso un po' più semplice, un po' più banale, mi viene da dire. Sarebbe carino se ci fosse un po' più di profondità di gameplay, un po' più di meccaniche, però se vogliamo restare sempre sullo sparatutto in terza persona, alla fine quanto si può modificare la formula? Non so quanto si quanto si possa variare a questo punto. Ok. Io prima mi riferivo soprattutto alla storia, e quello che ho detto l'ho già detto, e non so, sto pensando se devo dire qualcos'altro. In generale, il problema è che a questo momento, in questo momento non si sa assolutamente nulla di quale sarà. Esatto, è vero, non si sa che fine farà. Ma però, un po' pare, come in tutte le apocalissi, non sai che fine farai, quindi è calzante. Esatto, però a quanto pare anche per Fallout esiste una versione pinball, come per Skyrim. È importantissimo, grazie. Ma si fa la notte? Noi siamo ospiti in questo palazzo e cala la notte. Durante la notte si avvicinano diverse figure, almeno tre, diciamo. La prima è un uomo con giacca e cravatta, cravatta rossa, una pelata impressionante e un codice a barre dietro la testa, che è Hitman, nostro agente 47. Ne parlo velocemente, è una serie che a me piace tantissimo, ha avuto un piccolo capitombolo dalle scale con Absolution, perché era un gioco molto più lineare, molto più, come posso dire, fin troppo modaiolo, insomma, cercava un po' di essere una specie di Batman, Hitman Knight. E anche qui, invece, il primo gioco è uscito nel 2000. Sì, anche Hitman è vecchissimo, però gli ultimi giochi usciti sono strani perché da un lato sono la migliore incarnazione di Hitman, di questa serie, come intelligenza artificiale, come mondi, come livelli, come meccaniche, come sistemi e tutto, però sono molto simili fra di loro e il terzo sarà uguale. Mm-hmm. Quindi è un gioco che paradossalmente allo stesso tempo ha rivoluzionato i giochi stealth, ma gli ultimi tre capitoli sono paradossalmente tutti uguali fra di loro. Cioè, tu potresti comprare solo il terzo e averli tutti nel terzo. Non so se certo. Mi spiego, cioè... Sì, c'è stato poi un cambiamento radicale a un certo punto, direi nel 2016, se non sbaglio. Esatto, bravo, nel 2016. Oh, e poi gli ultimi 4 anni sono stati un raffinamento graduale senza modificare nulla di base. Infatti io, cioè, letteralmente posso giocare già ora ai livelli del primo Hitman nel 2. Cioè io faccio partire Hitman 2 e poi dico, ah no, in realtà voglio giocare a questo livello. E ho la grafica leggermente migliorata, ho un paio di sistemi in più, però secondo me è allo però stesso livello. Non c'è nulla di male in questo, anzi. No, perché... è una formula che a me piace tantissimo, però diciamo dopo il 3 preferirei un altro stacco netto per completamente rimodernizzare tutto un'altra volta, certo. Perché ci e sta. Qui mi ricollego, dopo che questo signore con la giacca e cravatta se ne va, dopo aver fatto quello che deve fare, probabilmente aveva ucciso Call of Duty, non lo so, il nostro fratellino. Arriva un altro signore, stavolta è un po' più difficile vederlo perché è vestito di nero, e ha, però fortunatamente ha tre luci luminosissime verdi in faccia, che è il signor Sam Fisher della saga di Splinter Cell, anche qui molto velocemente. È una saga che a me manca tantissimo, ormai manca da diversi anni, direi almeno 7-8, non lo so. E l'ultimo capitolo, Blacklist, era tornato in una direzione che a me piaceva molto, perché era comunque un gioco molto veloce, molto action per chi voleva che fosse veloce, ma aveva tanti sistemi. Esatto, aveva tanti sistemi che ancora oggi sono moderni, tra virgolette, per un gioco stealth. Aveva tante idee, tante cose prese dal mio capitolo preferito, che è Chaos Theory. E Chaos Theory stesso, che è il terzo capitolo, ancora oggi ha tanti dettagli di intelligenza artificiale che a me fanno un po' piangere, nel senso che, no, in senso positivo, nel senso che ha tante idee, tanti dettagli di cosa notano i nemici, di come si comportano, di dove vanno, che ovviamente, vabbè, sono molto calati nel tipo di gioco che era Chaos Theory, perché non era un gioco come Hitman dove c'erano tante persone in giro, dove dovevi infiltrarti in una zona magari molto popolata, cioè è un tipo di gioco molto diverso da Hitman, ma quello che faceva lo faceva bene, e a me manca tantissimo come atmosfera, come mi manca Luca Ward che dice quando io penso alla guerriglia non penso ai Kalashnikov, vabbè, dice frasi a molto alla eroe navigato, e appunto mi dispiace perché Blacklist sembrava un passo nella giusta direzione dopo quel mezzo scivolone che era Conviction. Quindi anche lì ci sono stati degli squali saltati per entrambe, ma ad un certo punto lasciano spazio alla serie che ha solo saltato squali per tutta la durata della serie. Ed è il nostro momento preferito, giusto? Giusto. Sigla. Kept you waiting, huh? E ci siamo. Direi che siamo arrivati alla saga che più ne abbiamo parlato in realtà. Già abbiamo accelerato un po' verso la fine, ma non volevamo troppo perderci perché volevamo avere un po' di tempo per parlare del nostro amatissimo collega. No, non è sì, vero. Io volevo fare queste due saghe prima velocemente anche perché non sono dello stesso calibro di Metal Gear Solid. Sono un po' vero. Sorelle allora, minori. Vero. Che dire di Metal Gear Solid? Perché in realtà parliamo solo di Metal Gear Solid o di Metal Gear in generale? Perché... Ah, bella domanda. Io direi Metal Gear Solid, però. Ok. Cioè, lascerei perdere Metal Gear 1, 2, perché la saga di Metal Gear tecnicamente comincia nell'87. No. Comincia nel 98. Ok. Ma noi partiremo con Metal Gear Solid che comunque l'unica cosa, allora prima di tutto c'è da dire, l'unica cosa da dire tra le cose è che i giochi precedenti erano in 2D e adesso siamo con una dimensione in più, ma a parte questo è già quello, esatto. Esatto, però questa dimensione in più Kojima la riesce a sfruttare molto bene, no? Perché per quanto riguarda nascondigli, telecamere nel senso di inquadrature, di meccaniche di individuazione visiva delle guardie, di nascondigli da parte di Snake, eccetera, Kojima sfrutta tutto sempre al meglio possibile. Quindi partiamo già con un solido sparatemi. Solido gioco stealth con Metal Gear Solid, appunto. Direi di evitare di parlare di storia in questo caso perché penso ne abbiamo già parlato. No, vabbè, dai, direi che possiamo tranquillamente parlare solo di come si è evoluto. Esatto, in quanto a meccaniche. E allora, partendo da Metal Gear Solid. Solid 2. Sons of Liberty. Qua non so neanche se definirlo come, perché è un feeling quasi completamente diverso come gioco, no? Cioè è molto simile perché la telecamera è simile, no? Cioè la versione originale del 2 aveva lo stesso quasi sistema di telecamere, però è molto più rifinito, però potevi fare tantissime cose in più, veramente tante. Vero, però cambiava anche, come dire, quasi forse un po'... non dico l'obiettivo del gioco, però l'idea del gioco forse era un po' meno stealth, in questo caso un po' più di un po' più sull'attacco, o ricordo male io in questo caso? Sì, effettivamente c'era un po' più di come posso dire, un po' più di senso di offensiva, era un po' più action come gioco rispetto a infiltrazione, stealth, eccetera. Ma anche più avevi più opzioni proprio di movimento, di esplorazione, quindi era meno, era effettivamente un gioco di un feeling diverso sotto molti punti di vista, ma come tecnologia dico proprio a livello di grafica, di cose che potevi fare, cioè appunto ripeto, ghiaccioli che si sciolgono. Sì, no, quello era assurdo, quella era proprio la Kojimata della PS2 che ha sfruttato tutto l'hardware possibile per fare cose assurde, come appunto diceva Jacopo, cubetti di ghiaccio che si sciolgono nei drink, i vetri che si infrangevano. Ma anche l'effetto iniziale della trasparenza di quel vestito. Cioè, ci sono tanti momenti poi a livello di intelligenza artificiale che ancora oggi possono stupire per una persona che non ha mai visti, tipo appunto tenere una pistola puntata contro un nemico e fargli alzare le mani, cioè... con gli ostaggi e... esatto, cioè è veramente veramente pieno di dettagli non solamente a livello di cose inutili come i ghiaccioli, ma a livello di trama, a livello di, cioè poter inquadrare un punto di un vestito di un personaggio che nasconde un dettaglio di trama, cioè È bello, è veramente bello, veramente un'evoluzione rispetto al primo. E questa è una cosa che ne abbiamo già parlato, cioè come ogni capitolo... Giusto un po'. Un pochino, cioè ogni capitolo porta avanti di brutto l'evoluzione... Non solo di storia, ma anche di meccaniche, sfruttando l'hardware della console su cui gira. E ci ho pensato adesso... Ma con Metal Gear Solid 3, ma Kojima per caso ha inventato i survival come li conosciamo? No! Sicuramente sì, ora che l'hai detto. No, no, secondo me, voglio fare un discorso più generico, perché ci sarebbe da parlare di per ore e ore, dal 3 al 4, dal 4 al 5, però in generale la serie si è piano piano liberata delle catene... secondo me del movimento così rigido del level design così claustrofobico e della struttura, come posso dire, rigida di un gioco essenzialmente lineare. Secondo me è stato un movimento graduale sempre più evidente di volersi liberare di come posso dire, una specie di macchinosità che avevano i primi due capitoli. È una cosa che è iniziata con il 3 e con il 4 e secondo me è finita un po' con Peace Walker e il 5. Non so se anche tu hai avuto questa impressione. È diventato sempre più open world? No, open world, io dico a livello di proprio di movimento, a livello di cose che si... cioè di telecamera, a livello... cioè è diventato sempre meno... non meccanico in senso positivo, è sempre meno... non so come dirlo in italiano, cioè mi viene in inglese la parola janky, cioè sempre più fluido, esatto, fluido appunto non in senso di animazione ma proprio in senso di feeling di gioco, di azioni, di meccaniche, sempre tutto più integrato, sempre tutto più sensato come interagivano tra di loro i sistemi. Mi ha sempre stupito, continuo a stupirmi ancora oggi, le cose che succedono in Metal Gear Solid 5, cioè ancora io non le so tutte, c'è cioè tutte le possibili interazioni, tra tutte le possibili cose che puoi fare e come reagiscono i nemici, cioè è veramente, e non solo in quel gioco, per carità, anche nel 4 e nel 3 ancora mi stupisco. Io veramente ho veramente avuto un mezzo lutto quando gli hanno tolto la saga, però vabbè, sono fiducioso che continuerà a fare robe strane Kojima, quindi... Lo speriamo. Non possiamo farci la domanda qui, Marco, di come continuerà, perché... Ti stai chiedendo forse perché siamo ancora qui? La risposta è survive, Marco. Solo per soffrire. Siamo solo qui per soffrire. No, survive, no. L'ha dimenticato. Ecco, la saga è andata fino al 5 poi. È sopravvissuta, va bene, che dire, cioè non so se c'è altro da aggiungere su Kojima, perché alla fine quello che stiamo facendo su Kojima è una saga a sua volta, è vero, tutto questo podcast nei nostri vari episodi e no, non so, vuoi aggiungere altro? No, per me è tutto. E allora io sono Marco. Grazie per averci ascoltato e alla prossima, continuate a giocare. Ciao ciao.